ancora il treno. Allontanarsi tu, che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è difficile restare senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò. Dieses Lied erzählt die Geschichte eines jungen Soldaten, der für ein Jahr Abschied nehmen musste von zu Hause und seiner Liebsten. Die Sehnsucht nach ihr war so groß, dass er ein Wiedersehen kaum erwarten konnte. Wart auf mich, Tornerò. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò, pensami sempre, sai, il tempo passerà. Sei la vita mia, amore, amore mio, quanta nostalgia, un anno non è un secolo, senza te. Tornerò, tornerò, pensami sempre, sai, tornerò. Andreas!